Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Nella puntata di oggi continuiamo a parlare della violenza sulle donne, un argomento che non è certo possibile esaurire in pochi minuti, ma sul quale speriamo di potervi fornire informazioni e spunti utili. In questa puntata ascoltiamo Leila Picco, presidente nazionale del Sor Optimist International Italia, che ci presenta il service nazionale Una stanza tutta per sé e ci parla del delicato momento della denuncia. L'Unione Nazionale del Sor Optimist ha predisposto per il biennio 2015-2017 un progetto che si rivolge alle donne che denunciano le violenze e gli abusi subiti all'Arma dei Carabinieri. Questo progetto si chiama Una stanza tutta per sé ed è tratto da un saggio di Virginia Woolf. In questo saggio l'autrice parla di questa stanza, di questo luogo dove la donna possa esprimersi, possa scrivere nel caso in cui si faccia riferimento direttamente all'autrice, ma che comunque abbia un locale che ha le caratteristiche giuste per poter esporre quali sono le sue preoccupazioni. Questa stanza è nata a Torino nel 2014 dalla collaborazione del Club di Torino con la compagnia Carabinieri di Mirafiori ed è successivamente divenuta un progetto nazionale per l'accordo che l'Unione Italiana ha fatto con il Comando Generale dell'Arma, che ha fatto diventare suo il progetto, oltre ovviamente a chi l'ha individuato, cioè il Sor Optimist, fatto diventare nazionale in maniera che in tutte le caserme italiane, principalmente nei comandi provinciali, ci sia questa stanza. Solo il 10-11%, secondo sia i dati italiani che europei, sono le donne che hanno subito violenze e denunciano. L'obiettivo fondamentale di questo progetto è ambizioso, ma si spera di poterci arrivare, di far aumentare questa percentuale. Il momento della denuncia è un momento estremamente delicato per la donna, è un momento in cui deve raccontare delle cose delle quali a volte si vergogna persino lei stessa, pur non essendone né la causa né colpevole, e quindi deve avere la possibilità di essere accolta, di avere la sensazione che i suoi problemi interessano, che anzi sono estremamente importanti. Ecco il perché del locale. È chiaro che i locali sono a livello territoriale, perché le compagnie dei carabinieri e i carabinieri operano a livello territoriale, per cui il progetto è nazionale ma le realizzazioni sono chiaramente territoriali. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.